Quell'età si deve stare tranquillo, che tanto di là ci sono tutti i giovinuzzi e quindi non gliene danno le donne, capito? Sì, vabbè, lui è anzianotto, quindi deve fare da bravo, se no è un casino. Vabbè, comunque, anche lui che aveva fatto la maglia, c'ha già 10 anni all'agosto, però ancora già è un pochino in forma, dai, qualche acciacco già ce l'ha, poverino, ma speriamo bene. 10, quindi per lui sono, quanto saranno? 65, 70? Più o meno una cosa del genere. Beh, non ce lo mando in pensione. Ormai ha lavorato, quanto vedranno, un sacco di crocchette al giorno. Un sacco di crocchette al giorno? No, non una crocchette al giorno. Un sacco di crocchette al giorno. Se sono un sacco di crocchette, mi fa un mese a me, cosa al giorno. Vabbè, come pensione. Vuol dire che era un alto grado, solo erano un sacco intero. No, invece ne ho visto uno, un pastore tedesco in televisione oggi, poverino, che l'è presa la cosa alle gambe, no? Di dietro, e quindi ne hanno fatto quella che per noi corrisponderebbe alla sedia a rotelle, no? Che ha le ruote dietro, e questo era un cane dell'esercito, ed è un cane dell'esercito, mascotte del reggimento. Questo ha alle spalle sia l'Iraq sia l'Afghanistan, quindi adesso è in pensione, non so che grado abbia questo pastore tedesco bellissimo, ed è coccolato da tutti, è la mascotte del reggimento. Poverino, deve essere molto anziano, perché le ha pigliata questa cosa, la paralisi alle gambe di dietro, però riesce a camminare con quelle davanti, perché ha quello a fare con le ruote, no? Bellissimo cane. Sì, ce n'è. Già la conosco. Ce n'era anche uno vicino a casa mia che aveva questo stesso problema, ci aveva il cavallino dietro. Beh, almeno a te forse sta zitto, da me invece anche questi sono, rompono le palle, di notte te ne arrivano, meow, meow, meow. E poi si inseguono, perché sono 5-6 che si vogliono fare la gatta, ovviamente, un casino che non ti dico. No, qua non c'è i cani, assolutamente, qua c'è il canile e basta, però cani non ce ne stanno, niente. Sì, no, io mi riferivo ai gatti, anche quelli quando iniziano, oi, già non la finiscono. Tu pensa che lunedì hanno, c'è la volpe, no? Che stava mangiando una ciotola, perché quella selvaggia, quella c'ha fame, e l'hanno spaventata, poveraccia, ne ha pigliato un mezzo accidente, è scappata come un missile, perché ne ha trovato due, sono avvicinati due che sono afferrati di gatti, che guarda, stanno lottando in aria, dei salti micidiali, proprio per questioni probabilmente di donne, come al solito. Questi animali stanno diventando troppo umani, Come mai? Non dire che cosa sono, come si dice, gatti randaggi che stanno lì? No, oramai sono gatti semidomestici, perché sono nati qua, questa è una nuova generazione di gatti. Quelli vecchi, molti ne sono morti, questi qua invece sono nuova generazione, che si scontrano magari con qualcuno più grosso, più anziano, perché insomma le donne sono poche e quindi sai cosa succede, no? Ti dicono guarda la faccio io, no ci sono prima io, sono più giovane, e ma io sono il capo, insomma i soliti affarratori, no? Già lo sai quando attaccano non me la finiscono più. Si afferma, vede quando era fermata chi era un mare, ce n'era di gatti giù nel giardino, anche perché quelle eravano da mangiare, capito? Quindi venivano un sacco di gatti, molti partorivano anche lì, quindi cosa vuoi fare? Quando un amante degli animali è così, caro Gianfranco, non c'è niente da fare. È così, sì. Fanno cose allucinanti, guarda questi animali, cose allucinanti. Ma lo sai che c'è una cornacchia? Che a posto di fare cose facili, no? sul ponteggio dove c'è la scala, mica vola e sale sul poggio, no, arriva in basso, poi si fa tutti i gradini saltellando doin. È presente che quanto è questo affare, sarà 8 metri, anche più di 8 metri, e vedi questa qua salire la scala, andata lì che così Fumetta Rosa da farsi le scale, vuole risparmiare sulle ali. E poi sono intelligenti, ma quando sono intelligenti le cornacchie, allucinanti sono. Che ti cada un pezzo di pane, il tempo di fare 10 metri e dietro non c'è più. Quello che tenta, è agguato. Gli agguati ti fa, però è un cielo molto, molto intelligente, molto attento, rubuti così facilmente, e quindi tu stai facendo collegamenti, non stai seguendo gli altri. Non è che me ne freghi molto, la mia passione lo sai qual è, l'ascolto, radioascolto, andare a destra, a sinistra, sentire, fare, farmi una chiacchierata qua, o farmi una chiacchierata là, però proprio collegamenti, guarda, non me ne può fregare meno. Se no, questa TF è sempre spento, intanto accendo, e poi lo spengo, accendo, lo spengo. Vabbè, comunque, è così. Con questo qui non sono stanco molto, non lo voglio, facciamo un sacco di cose. Adesso mi sembra che se ne stiamo dalla caglia, diciamo, la vita di Uglia. Vediamo, ce ne togliamo piedi. Fa bene, perché almeno io sono bravi qua stendiamo un velo molto ma molto pietoso, guarda, cambiamo discorso, perché sennò veramente sono dolori. Ui. Mi pare, non vorrei mi arrivi dalla cornacchia fondomata, esce da fuori, mi pare che stia migliorando un pochino il tempo, c'è un venticello leggerissimo sembrerebbe da nord-est, da nord adesso. Non vedo bene la bandiera, sì, forse da nord, ma proprio leggero, una brezza, però mi sa che ha recuperato questo pomeriggio. Sì, recupera, domani è tempo bello, poi da lunedì iniziamo veramente a sollevarsi le temperature, arrivare, insomma, è tempo bello, dai. Poi chiaramente se c'è qualche cosa, di qualche giornata un po' bruttina, ma non ne fa più tempo brutto. Ma speriamo, ma che c'è da fare? speriamo che ci lasci un po' in pace. Cioè, o meglio, l'acqua già serve, non è che perché su in Lombardia c'è una situazione proprio evitoma un po'. Quindi l'acqua ci serve soprattutto in questa situazione che bisogna rimettere mano al grano e tutta quella roba, se no tanto già sta salendo di prezzo il pane e quello è per rimanere anche senza mangiare, ma almeno per il pane quello serve. Vabbè. Gianfranco, io ho sentito la macchina di mia figlia, sta parcheggiando, vado a dare la mano a scaricare. Ci sentiamo dopo se ci sei, ok? Sì, ok, te lo stavo per dire io perché ho visto l'orologio, adesso vado a mangiarmi qualcosa che è ora di cena. Ci sentiamo dopo, Clara, eventualmente. Fai pure quello che devi fare. A più tardi, ciao. Ciao. Ciao Claudio. Il microfono conosci anche. Allora, il microfono. Rientrato sì, Antonè. Eia, aspetta un secondo. Ciao Claudio. Ciao, ma dice un perché non ero bugia, tante feughe. Io non so se la cagnò di c'è la classe ma 500 vecchia. Sì, anche a me non piace molto, o è quello classico o altrimenti gli altri non è che mi piacciono neanche a me. C'è un interruttore dietro, basta spegnerlo. Cava noce. Spegni quello del Salenta, l'interruttore e accendi quello della radio, è molto più bello. C'è il pulsantino dietro alla Salenta, mettilo dalla parte opposta e c'è solamente il bip della radio. Guarda così. No, questo è un bip, questo va benissimo, questo è quello della radio, lascia così, è molto meglio, questo bivi. Stavo cercando l'interruttore, ho detto dove diavolo è, poi ho girato il microfono e invece già era bello al centro. Lascia così che vabbè, ma non si sente che sei già un galaxiato, non è che sono più bip. In questo frangente di tempo mi ho piazzato un'altra zanzariera nella finestra, me ne mancano altri due, domani mattina le piazzo così ho finito di metterle in tutta la casa. Appena sono arrivato qua, gli ho fatto piazzare, ce l'ho qua nella cameretta dove c'è la radio, apro la finestra, c'è la zanzariera, anche la mia figlia, anche la mia moglie, nel salone, tutto il bagno, da tutte le parti sono le zanzariere, con le scorregole, sali e scendila, capito? E sennò qua l'estate ti mangiano le mosche. E qua lo stesso, tra mosche e zanzare inizia la battaglia adesso, perché praticamente stavo guardando il meteo prima, venerdì dovremmo raggiungere anche i 30 gradi, però già in giro c'era qualcosa di mosche, mosconi, come aprire le finestre la mattina ti entra di tutto, e allora io generalmente verso così metà maggio sempre lo faccio, le piazzo, poi le tolgo a fine stagione e le rimetto sempre in questo periodo. No, le mie sono fisse, sono saliscenti. L'estate inverno, no, non voglio stare a smontare e fare, piazzate tutte, piazzate, con le buie e vetri, sgancia, tira sulla zanzariera e pulisce i vetri, capito? Va bene, è un bel motopompa. Adesso vi sono con 3.009, si nota, sì. Sì, ma è e ho avuto, come era quel microfono, aspetta, l'F24, e vabbè, sembrava terra, quindi in cui... Anche questo mi sa che dice così, mi sa che è così anche questo, va bene. Stai uscendo qua, una meraviglia Carlo, veramente, ma bene, cazzo, non ho mai sentito nessuno uscire così bene, che bello. È una buona radio qua. questa, sì sì. Comunque dal prossimo anno anche io, se cambiano le finestre, le metto quelle fisse, sali scendi e non ci penso più, sono più comode quelle lì. Queste che metto io le avevo costruite io, fatte in legno, il travaglietto, fissate con due, come si chiama, con due viti, con i tassellini, ce li ho già almeno una decina d'anni. Tutti gli anni cambio la zanzariera perché compro di quelle eco zanzariere, quindi le tolgo, rimetto il felcro nuovo e mi durano tutta una stagione, capito? Poi tira un po' tutto, però quelle saliscendi sono una comodità. No, beh, perché sono gli sportelloni, forse tu ce li avvolgibili, ma sono gli sportelloni, quindi capito? C'è direttamente l'intelaiatura fatta a muro, fatta in alluminio, insomma, fatte io via sotto dove abitavo prima, Antonella, le ho fatte io quando mi sono trasferito. La prima cosa che ho fatto mettere zanzariere, e sono andato a aprire qua, sono andato a buttare le zanzariere, non ho mai visto una zanzara dentro casa, qualche mosca dalla porta, così, mentre entra e esce il cane, mi scappa, ma altrimenti non avessi dormito la notte, capito? Qua c'è l'estate, c'è molto caldo fuori, quindi ci sono le zanzare, le mosche, i mosconi, le vespe, le api, tutto questo. È un buon investimento comunque quello delle zanzariere, se le hai fatte così giustamente soldi spesi bene, e io farò lo stesso. Quando mi cambiano le finestre mi mettono quelli in alluminio, sì, noi abbiamo le saliscendi, la volgibile, però esternamente c'è lo spazio e metterò anche io quelle in struttura in alluminio senza manutenzione. Una volta che le metti quelli non le togli più, cambi solo il rullo quando si rompe della zanzariera. Buonanotte. Io a Calmanti c'avevo quelle da avvolgibile, le fermo, quelle che vanno messe nella guida dell'avvolgibile, capito? E poi abbassi l'avvolgibile e rimane ferma. Quelle sono buone, questa è una cazzata, vanno bene. Ho capito, no, forse c'è qualcuno sotto che ha chiesto di entrare. Avanti? Avanti Becco, chi è? Avanti Becco di poco fa. Oh, a me non mi sente, sento un becco, ma non ho capito chi è. Ho già beccato sopra di me, o avete sentito sopra? Sono vicino a voi. No, è affatto, segnale 1:30, 2, lo sto ascoltando con la canava a pesca, figurati, l'ho sentito con quello. Poi sento un becco, però non mi ricordo che cosa ha detto lui dopo. Prova a farlo venire da parte tua e poi ti dico magari chi è. Io guaccio quello, ma è vero, non ho sentito niente. Se l'ha registrato Carlo, evidentemente l'ha sentito. Vai Carlo. Sì, ho sentito il break da prima, capito? Poi mi sembrava sotto di sentire, ha parlato anche quando tu hai smesso di parlare, e ho detto avanti chi vuole entrare, ho sentito qualcosa, ma pio pio lo sentivo, Forse di preparazione allora. Può essere magari qualcuno da lontano, boh, non lo so, però adesso non lo sento più. E neanche io non ho sentito la verità, è sparito. Se vuole entrare già lo sento io. C'è un'antenna, sto usando la canola a pesca, per la zona di coso, è giusta questa qui, perché nell'angolo della dove c'è il terrazzino, accanto al camminetto, una volta avevo aspettato la come si chiama, la Super Regibus, cazzo sentivo tutta la zona di cose, Marco Mer, eccetera, eccetera. Con una volta va nulla, non sentivo niente. Ma la canna da pesca tu l'hai messa sul tuo terrazzino, o sbaglio? Sì, hai fatto sul terrazzino. Capito, è proprio nel punto dove c'è l'apertura per Monte Santo, capito? Quindi evidentemente c'è Monte Santo e Sennori, Sennori lo piglio proprio in pieno, prendo i ripetitori. Invece sopra, dalla parte di Usi, non vedo niente, quindi. Però è l'unico punto che lì ci ho aperto, è strano, basta un metro, due metri e la cosa cambia. Ho capito, ma questo beep prolungato che hai? Nel microfono o nella radio? No, è nella scheda, c'ho la scheda RP4 della Intel. C'ho la scheda RP4 della Intec, addirittura quella che c'avevo nelle 80 della TV della LEM, la scheda, l'avevo installata io. Di una di queste schede qui me ne ho un'altra di RP4, e quella la metto nel, come scomitare la piazza. E così la utilizzo, è nuova roba, e funziona anche bene. Prima ho provato ad andare in banda laterale e c'era un po' di gente, capito, solo che stavo facendo anche cosa e ho fatto solo ascolto. Comunque si sente molto bene qua, e nella stanza dove sono, in cucina, rimbomba una meraviglia questo audio. È forte, lo devo tenere attenuato anche, capito? Lo so, a volte io volevo chiamare, se lo sento mettere la su QRM, no, è propagazione, voglio arrivare, è roba di propagazione questa. Vieni a me, la tengo 5, chi è avanti? Anche io. E metto la canna da pesca agganciata alla, il caminetto è in pratica c'ha il coso fine, però se le avessi messo due fascette di quelle in metallo con l'aggancio per poter agganciare la canna da pesca sarebbe stato un bomboio. Che mi ricordo quando avevo pensato la Super Vegibus, che poi avevo regalato a Giovanna via San Giovanni, che poi non me l'hanno più restituito. Era una cosa allucinante, tra la mantua e quella c'era una bella differenza di ricezione. Figurati tu. Addirittura poi l'avevo costruito, e Claudia se lo ricorda, avevo messo lo stilo della Turbo 2001, una basetta di Grand Prix e quattro radiali, avuti con quattro antenne diverse di macchina, figurati tu. Sollevato di 6 metri e parlavo con Gigi Bucca, ma com'è? Pensa tu, ovviamente la propagazione sì c'entra, ma dipende anche dall'antenna, da come l'hai, diciamo, posizionata e dove è favorevole, capito? Perché per arrivare lì a Macomer, insomma, ne devi fare di tragitto. Lo so, ma me l'avevo detto, lui addirittura, quando è diventato a Sassa, dice, lo sai che ti sentivo a Macomer, è forte, mi ha detto. Io ho detto, la verità, ti ho sentito quando sei arrivato verso qualcosa, sì, mi ricordo. Poi dopodiché non ti sentivo per niente, dice invece lui mi sentiva bene. L'avevo fatto in pratica con una bagata di Grand Play, ci ho messo lo stivo da Turbo 2001 che poi mi ha regalato a Giuseppe Leoncini e ce l'ha cacciata in macchina. Poi dove c'erano i radiali, siccome i radiali c'avevo quattro antenne di macchina di quelle di quegli stili che si usavano una volta, però lui lo sa che il corvo gli aveva venduto 4 o 5 di quelli stili, ma usciva una cosa allucinante quella antenna, sembrava una 5 ottavi, sembrava. Claudio, ti stanno chiamando. Chi è che chiama Claudio Stasera? Avanti. Chi è che sta chiamando Claudio Stasera? Avanti. Attenzione amico, sta chiamando Claudio. Secondo me è D'Alghero. No, se fosse stato D'Alghero l'avremmo sentito bene, capito? Io con Alghero, insomma, ci ho parlato diverse volte, mi sentono bene e loro io li sento bene lo stesso. Avanti Beck, chi è? Nulla, forse siete solamente a te Carlo. Può essere, non lo so. Avanti Beck, fai un passaggio lungo e vediamo se riusciamo a tirarti fuori. Avanti sul canale 10. Nulla, non c'è nulla da fare. Non siete nemmeno a te, solo a Carlo siete buh. Magari ho qualcuno in macchina, lo so, è lontano, magari è non è favorevole come zona. E vabbè, peggio per lui, se vuole entrare, già entra. Cosa vuoi che dica io? Chi sei? Marco da Colongianos. Segnale 4 qua, radio 4. Me l'ha ascoltato Marco. Io ti ascolto, avanti Carlo. Sì Marco, buonasera, ti ho sentito anch'io adesso. Però la radio molto bassa, capito? La radio molto bassa, viene avanti, buonasera. Io ti ascolto adesso, non so se tu mi senti, ma io ti ascolto, è positivo, comunque io ti ascolto adesso io, ti sei ascoltato con la Mantova, con la Tantena arrivi Santiago 2,5, con questa arrivi 4, ok, avanti Carlo, e siamo tutti lisci senza essere agganciati. Tu ci ascolti bene Marco in barra mobile lì verso Codrongianos? A volte dice che ci sente o non ci sente, evidentemente c'è qualche lineare, dice che c'è lineare, evidentemente si incolla. Marco, ci sei ancora? Sparito Ehi, magari si sente più in là, secondo dov'è qualche collinetta bassa, non ci arriva qua, capito? No, a me tu ci vedi come un giallo, così ha detto. Non so in quale punto sei, con il giallo su c'è fermo, no è. Come è parito? O magari è sceso dalla macchina, non lo so se era o in camion, blu, perché con Rongianos io già ci avevo parlato l'altra volta con forse era un camionista o un corriere tempo fa, e praticamente ci ho parlato, sino lui poi ha chiamato che era andato a Chiaramonti, sino a dentro Chiaramonti l'ho sentito, capito? Lui poi un po' l'avevo perso lì nella salettina, poi quando è arrivato a Chiaramonti che stava facendo una consegna, ha provato a richiamare e l'ho risentito. Figurati se non lo sentiamo lì a Codrongianos. E infatti, sembra un pochettino strana la cosa. Vabbè, Claudio, riprenditela. Mi sa che l'hanno chiamato Claudio, forse è andato a accompagnare qualcuno, la moglie o la figlia. Sì, ti sento ancora, dimmi. Non mi chiamo Gianni, mi chiamo Alessio io. Sì, ti ascolto. Sì, secondo me c'è Carlo qua, da Sassari comunque. Ah, la centrale elettrica, adesso ci hanno fatto l'affare di ammodulare. E mi domandano il giorno di temporale, se no ti avrebbero preso in pieno i fulmini. Hai capito dove è Carlo? Evidentemente c'è le scariche elettriche lì senz'altro. Siccome già non è passa corrente lì. Riprendi un attimo Carlo, che mi stavano chiamando al telefono. Eia, Marco mi senti? Antonello è andato a rispondere al telefono. Io sono Carlo, dimmi se mi senti. Gli ultimi passaggi che hai fatto sono riuscito a tirarti fuori comunque. Non ti sento più. Avanti, chi c'è? Canale 10, c'è qualcuno? Canale 10, c'è qualcuno?